e ti porto con me lungo le strade di questa follia, fra queste colline di papaveri rossi, dove anche il sole indugia, si infrange, raggio fugace fra le corolle. E ti porto con me lungo sentieri di sterpi e di rovi, tra queste valli di mirtilli e di viole, fra le meteore di giorni impazziti, dove anche il vento si cheta e poi tace, e ti porto con me. E ti porto con me. E ti porto con me tra queste braccia di naufrago inerme, dove i ricordi non ti fanno morire, dove anche il tempo si ferma a sognare, e queste lacrime non sanno di sale. E ti porto con me, e ti porto con me.